già mi rifaccio domani, forse. Adesso Antonio, io dovrei stendere la roba lavata e quindi devo staccare. Sbadigliami. Pensa che ti do il lettuato che è stendere. Quindi io questa mattina sono uscito e ho trovato Giampiero in piazzetta, siamo rimasti un quarto d'ora assieme. Poi ho preso, l'ho accompagnato io e Emanuela, e poi ce l'ho messa a letto io, quando sono entrata alla una. Figurati. Adesso mi sono controllato la carta, c'ho 8 euro, quando mi piglio 3,50 euro di lattine, e così me ne bevo piano piano. Poi domani devo andare al CAF, devo andare. Tanto mi sono arrivato a 600 euro di coso, cazzo. Del 2020, tra 2024 e 2025, la mobetta. 600 euro? Aspetta, io non mi ricordo quant'è da noi all'anno. Quant'era? Boh. Vabbè, non me ne ricordo, dai. Però penso sia 200, boh, non è inutile che lo dica, tanto sbaglio, vabbè, perché poi è in varie rate, non puoi pagare tutto assieme in varie rate. Ah, me lo faccio da te, dai, ma stai scherzando, cazzo. Non esiste, me lo faccio da te, dai. Anzi, pensavo fosse una multa, la verità. Cazzo, voglio, mi è arrivato questa cosa rettangolare larga, cazzo, questo foglio. Allora, penso, sono sceso la giù, vado, ho detto, conto la mia, cosa cazzo è questa merda, gli ho detto. Pensavo che era qualche multa, magari, che mi sono magari qualche busta, eccetera, eccetera. No. 2 anni di corso, io mi ricordo comunque che l'avevo pagata. Adesso bisogna che mi cerco tutti i fogli, uno per uno, controllare quanto li ho pagato e farmelo scalare. È brutto quando è l'agenzia delle entrate, tipo bolli non pagati, bolli delle macchine, dimenticati oppure voluti dimenticare. Tutti gli interessi chiedono, per carità, e non gliene sfugge uno, magari in prossimità della scadenza, entro i 3 anni o quant'è, che hanno per pretenderli, però alla fine ti arriva. Sì, quello sì. Devi pagare lo stesso, devi pagare, comunque ti arriva lo stesso. Ah, già c'era la titolazione, speriamo che ci diano questi 200 euro di bonus. Fatti dice anche tu, a meno che paghi di meno, hai capito, con tua madre. Fatevi il foglio ISE, non ti costa niente, fatelo, se l'ha fatto Marco, che prende la pensione, ci ha fatto il foglio ISE, almeno prende il bonus per la luce, il bonus per il gas, hai capito? E quei soldi lì te li mangi. How do you do? Non so se sta chiamando noi o no. Ah boh, non lo so. Per infilarci lo spitter ho dovuto grattarmi con la forbice sopra e sotto, ho grattato, ho fatto 2-3 mm da una parte, 2-3 mm dall'altra, e è stato giusta lo smitter. Quindi, caspita, sembrano uguali, come vedi Antonio, sembrano uguali, ma basta anche un decimo di millimetro di differenza e appunto devi fare come hai fatto tu. No, era solamente in altezza che l'ho fatto, in altezza, in larghezza, in altezza non ho toccato niente, quindi c'è entrato giusto, capito? E ce l'ho infilato, appena ce l'ho infilato, mi pare vero, ho saldato il filo, ho detto funziona. Ci ho messo la lampadina solo originale, l'altra l'ho conservata, quel LED insieme alla resistenza. Quindi se ti serve me lo dici, quel LED con quella resistenza, e quando ti devi cambiare la lampadina dello smitter, non fai altro che fargli 2 saldature e sei a posto. Qua vediamo qua, va bene, questo credo di avere, ma sai che non lo so, presumo LED, credo che sia un LED qua, un LED blu. Invece nel lato 3009 c'è la lampadina e l'ho già cambiata due volte l'ho cambiata, una rogna in me, una rogna, perché poi se non ci vedi bene devi metterti occhiali, contro occhiali, poi mi perdo la pazienza, mi tremano le mani, poi quella lampadina c'ha hai visto i filettini, sono talmente sottili, Giovanni, non li vedi manco per saldarli. Va bene, va bene, già te lo faccio già pronto, non fai altro che filarci al vento e se la piglia, come ho fatto io, ci ho filato la lampadina all'interno, dalla parte di sotto e poi ed è a posto. No, ma infatti la prossima volta non mi frega più la lampadina, gli metto il LED bianco, e se necessario la resistenza, se serve, però non mi aggiuffo più con quelle lampadine piccole, e ce le avevo anche da parte, però da parte dove non so ancora dove le ho messe, sono talmente piccole, le avevo messe mi pare in un portanelli, sai quando dai l'anello alla fidanzata, alla piccina, era un portanello di mamma, le avevo messe lì, però il portanello era piccolo e non so dove cavolo l'ho messo, vabbè. Magari ce l'aveva buttato, ce l'aveva visto in casa, qui dentro c'è un anello che si illumina. No, ma infatti, Antonio, in camera mia non voglio che metta mano, c'è un conto e le altre stanze, che però in camera mia non mi dà fastidio, perché ti tocca, cioè, è una cosa intima, sono cavoli tuoi quello che c'è negli armadi, io potrei avere una bambola gonfiabile, perché la deve vedere lì? No, c'è dopo, adesso non c'è più bambole gonfiabili, adesso c'è dopo, se tu vai in quei siti cinesi c'è dopo proprio che cammina, uguale, identico, capito, in carne sempre. C'è la bocca, cammina, ti bacia, ti fa quello che vuoi. Sì, asciano, aspetta, come le chiamano, real doll, in silicone. Sembra pelle vera, sembra tutta vera, sembra. Le articolazioni snodate, eccetera. Costano migliaia di euro, però quelle fatte bene. Lo so, hanno fatto dopo che addirittura ti dà certi schiaffi, che esci dritto, sparatura. Ui, ui. Cosa non si inventano? Mamma mia. In Cina, capito, fanno di tutto, non esistono le babbe gonfiate, lì ci sono i robot, ti prendi un robot, lo metti in casa e ti fa tutto lui, ti fa. Così non esci di casa. No, già va bene il robot da cucina, uguale, ci metti il coso dentro e te lo frulla. E vado, ci metti l'uccello, poi il resto, la bombieco. Allora, ui, che siamo andati bene, grazie. L'impastatrice, capito? Te lo impasta. Ci ho capito, cioè, che è l'impastatrice. Chi è che chiama? Propagazione, cioè. Pensavo che fosse qualcuno che stava chiamando. Avanti, questo è un Kenwood. Ehi, buongiorno, Daniele. Buongiorno. Allora, come mi ascolti con questo baracchino? Va bene, Antonio, va bene, dai. Non sei come l'altro, ma già va bene. Sto usando l'LMS200, della Lafayette, modello vecchio. Si affunde, se tu metti appena la radio, va bene. Devo mettere il microfono amplificato adesso, se ce la faccio glielo metto stasera, gli metto il Saverta, ecco basta di piazzo, e così esce con quello, esce così pompa. Avanti Marco. Eia. Ciao Daniele, ben sentito e ben entrato. Buonasera Marco, ben ascoltato. Sono piccolo e nero, sono solo 4 watt, che poi ce l'ho detto, arrivare all'antenna non sono nemmeno 4, saranno 3 se mi va bene. 2,5 3 K. Ah, Antone, come ti arriva Daniele a quello Smith, per esempio? Prova Daniele. Otto e mezzo, quasi 9. Caspita, è buono, quasi quanto me. E vabbè, lì sei aperto. Kappa, kappa. Dimmi Daniele, non ho capito la domanda. Ecco, come sto arrivando io, non lo ricordo mai. Sempre 8 e mezzo non modulato, quando moduli quasi 9, dai, quasi. Vabbè, faccio così, vicino. Sì, la radio è bella presente, bella forte, anzi, quando parli tu devo abbassare, quando parla Antonello devo alzare un po'. No, strappando magari no, però si sente molto effetto stanza e rimbombare della stanza, un po' evidente. Beh, io vi lascio un attimo, Antonella, già non sei solo adesso, riprendete voi e mi stendo questa roba, se no davvero non asciuga più. Aspetta che faccio 2 secondi da pupù, se no me la faccio addosso, cazzo. E mi devo cambiare poi i pantaloni e tutto. Aspetta 2 secondi, Daniel. Marco, intanto lo facciamo stendere. Ehi, fai Antonella, fai, che tanto sono più con i bambini, là. Va bene, sto arrivando subito. Ma Antonello non è tornato, deve essere caduto nella cacca. Marco, faccio io ero giù, se non posso salire adesso. Come Daniele, puoi ripetere? Ho detto che ero giù, sono salito adesso. Non è rientrato Antonello, sicuramente sta facendo altro, dai. E va bene, io ho cambiato radio perché era ferma da un po' e le devo far girare tutte attorno, peraltro più performante, dai, si vedrà dal segnale. La si vede, ma comunque c'è una bella modulazione questa. Per quanto abbia toni un po' alti, mi pare, hai toni un po' più alti di quell'altro mic, credo, Se è così è poca roba, bisogna fare le comparazioni subito, una pressione. Così, a orecchio, ma è poca roba, Ah, vabbè, allora non mi preoccupo, dai. Questo è il mic di serie, il microfono di serie originale. Un apparecchietto omologato e piccoletto, MFM. C'ha giusto le solite funzioni base, l'autosquelch, dual watch, la scansione e così da, senza pretese. Già, vediamo, questo è digitale, così è. Eia, c'ha il display a cristalli liquidi della CRT. Già funge, Marco, 9-10 sembra, ce n'è per la zuppa qua. Ma lui sai perché? Perché lui esce con a malapena 3 watt, questi omologati piccoli di nuova generazione certe volte li tarano nemmeno 4 watt modulati, è proprio 3 watt miseri. Guarda, massimo 3,5 modulati quando fischi, se no sono 3 watt. E allora l'aiutino già ci sta bene, dai. Aspetta un secondo, ero chiamato Giovanni, arrivo subito. Eia. Si era sentato, quindi alla fine il canale era vuoto, credo, stesso quella roba, mi stavo anche assopendo qua seduto sul divano. E vabbè, dai, tanto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Ce l'abbiamo da parlare, non è problema. Adesso ci stavo ragionando, secondo me è normale questa storia della M, quindi adesso la storia c'è una e quattro fisse e perché non c'è vento. Ora la cosa che c'ho picchi negativi in M, dovrebbe essere normale la cosa. Ma ascolta, ma te lo fa, cos'è, un po' di ossido, cos'è il vento, come uscì l'antenna, un po' tocca, un po' non tocca, cos'è? Problemi di massa c'è, ci sono, ma me lo fa anche qualcosa, col chibudo una cosa del genere, me ne sono accorto parecchie volte, che ogni tanto prende in FM da 50 me ne scende a 30, hai capito? Io pensavo che era la sporcizia della polvere, invece cazzo è la massa, e quando piove funziona bene, quindi devo salire sopra, passargli la carta vetrata e poi tingere con la vernice alluminio, dopodiché una volta che è tinta con la vernice alluminio che è asciutta ci rimette un po' la caffetta di sopra, che sopra è a posto. La stessa cosa sarà per questa antenna qua, per i radiali. Ti ricordi cosa c'era? C'era quella piastra che pressava i radiali, no? Mettevi le tre viti e li teneva in queste premuti, no? Però lì sarà tutto ossido, tutta quella parte di metallo, alluminio, sarà tutto ossido, ruggine, cioè roba che se tu la smonti si spacca tutto, non riesci a ripiazzarla, capito? E vabbè, perché anche a me ogni tanto lo Smith lo vedi appena che si muove in mezzo a Santiago, col vento soprattutto, sale e scende in mezzo a Santiago, e ho detto ma qua c'è qualcosina che è conduzione poco buona, però stazionario è nulla, quindi quelle magari radiale un pochino che non presumo, non lo so. Va bene, via, che serata lunga. Lo so, no, la mia dovrebbe essere invece lo stiletto che devo regolarlo, dovrebbe essere 76 centimetri in origine, per i primi 40 canali, partire da 26 a 27.500 mi sembra, una cosa del genere, dopodiché tende a salire. Una cosa del genere mi sembra che è. Perché questo fatto qua l'ho avuto coso nell'antenna di Marino quando l'abbiamo piazzata, capito? E quindi devo fargli quella taratura lì, già c'ho il foglietto, vado male, bisogna che controllo, se non mi ricordo male era 76 centimetri. Bisogna che salgo sopra, scendo, quando scendo dall'antenna in terra l'appoggio, come si chiama, faccio la taratura dello stiletto e poi ce la rimetto, una volta messa la massa ce la rimetto sopra. Va bene, gennaio, febbraio, marzo, e ancora siamo, il tempo un po' così, non siamo ancora in primavera proprio, per il caldo, il tempo stabile vorrei un po', soprattutto mancanza di vento, per fare quelle prove mie con il drone. No, per fare il controllo da te bisogna salire 5 minuti sopra, controllare il palo, se è oscillato. Dargli una passata di carta abrasiva e poi passargli un po' di vernice, la facciamo asciugare, però questa l'ho fatto l'estate. Il lavoro l'ho fatto di mattina verso le 10 quando è un po' asciutto e poi gli passiamo la vernice con l'alluminio, tanto quella conduce, così sei più tranquillo. Io ho fatto male, cazzo, a graffiarla e non verniciarla con l'alluminio, cazzo, a far culo a me, cazzo. Sì, infatti mi chiedo, magari no, però mi chiedo se rispetto a quando l'abbiamo messa, e che era nel 2014, io ho sbagliato, questa antenna a maggio non fa 12 anni, fa 11 anni, e sai perché mi ricordavo male? Perché nel 2013 abbiamo messo quello schifo di Ringo, quella Ringo, dopo un anno, sempre a maggio, per disperazione l'abbiamo tolta e abbiamo messa questa qua, quindi questa compie 11 anni, però secondo me rispetto a quando l'abbiamo piazzata che era bella nuova, non era ossidata, secondo me qualcosa ha perso in ricezione e trasmissione, sai l'ossido che si forma, vabbè, anche sui radiali, sullo stiro, la sporcizia e tutto quanto, secondo me rende meno di quando è nuova, metti che anche la bobina si sia ossidata, magari per vedere tutta verde rame, chi lo sa, bisognerebbe salire e vederla. No, non credo la bobina abbia niente. Cazzo, ma è stata come l'ho lasciata, ma stai scherzando, non entra l'acqua lì dentro. C'è il foro che è più su, già lo sai, che scarica l'acqua. Quindi magari appena ricondensa c'è, perché non prende il sole e rimane oscurata la bobina, questo può darsi anche, niente di strano, perché c'è il nastro isolante, il nastro vulcanizzante, eccetera eccetera, quindi il foro risulta, mi sembra, un centimetro sopra, mezzo centimetro sopra, quindi a un certo punto, siccome il foro non è tanto grande, è piccolino, non ci abbiamo pensato ad allargarglielo, fargli un pochettino più grande, in modo se dovesse entrare acqua, scende direttamente giù, verso il... verso come si chiama, dove sono i radiali, e basta, che poi lì c'è il bullone, già lo sai, e quando si aggiunge il bullone massa non le fa il piede, già lo sai anche tu, magari è anche quello il problema mio, non è che sia nient'altro, potrebbe essere l'attacco del bullone che è arrugginito, ma quello non è che ci voglia molto a sistemarlo, basta cambiare il bulloncino e tiene tutto lo stilo intero e le, come si chiama? È quella specie di, come si dice, di rondella autostringente, capito? Ma la bobina però non era, non rimaneva al buio, praticamente lì c'era il tubicino trasparente, io ho messo il vulcanizzante solo tra la bobina, la parte alta della bobina e il radiatore, però il resto era a vista, a meno che il tubicino di plastica col tempo si sia rotto e opacizzato molto, dovrebbe essere ancora visibile dall'esterno, in teoria è. È tutto da vedere, non è, adesso noi stiamo ragionando così, bisognerebbe salire sopra e controllare, se sotto c'è quel bullone dove attacca le PL che è ruginoso, piano piano gli mettiamo lo squitto, lo stacchiamo, gli passiamo la spatola, quella per il ferro, in modo da pulire dove è avvitta, e poi mettergli un altro bulloncino di quelli lì, uguale, in acciaio però, insieme alla rondella, in modo che sia tranquillo, e poi si puliamo anche sotto, dove fa la massa, capito? Quando stringi quel bulloncino. Antonio, non ne vale la pena, non c'è il tanto. Adesso questa che l'antenna possa essere meno performante è una teoria mia, cosa si pure di no. Beh, però mi chiedevo, quella piastra che teneva il radiale in sede non era in alluminio, cos'era? In ferro, ferro zingato? Sì, è ferro zingato quello, ce l'ho anche io così. Sì, allora sarà. Sarà. Sarà diventata tutto un pezzo di ruggine, perché la zingatura resiste fino a un certo punto. Non so cosa volevo fare, un giorno senza stare a salire, a farmi col drone, salire e io in diretta vedo le condizioni della bobina, della base radiale, tutto, però devo stare solo molto attento, praticamente in FPV vado, con la... guardando lo schermo dello smartphone, però non mi devo avvicinare troppo, perché se per caso lì che toccano i radiali o la bobina, il radiatore, ne ingaggi il drone, cioè non cade in strada, cade nel terrazzo. Però anche quella era una cosa fattibile, ispezionare l'antenna tramite drone in FPV praticamente. Cazzo, non faccio mai salire sopra, scusa, secondo te? Faccio prima salire sopra, mi ispeziono bene il coso, poi vediamo che cosa c'ha. Anch'io devo fare questo lavoro, adesso aspetto che finisca questo mese di marzo, e finisca la pioggia, eccetera, eccetera. Come inizia l'estate, salgo su, ne smonto l'antenna, l'appoggio al terrazzino, l'appoggio e il palo, mi piglio un palo telescopico più leggero, eccetera, eccetera, quindi non ne vale neanche la pena di usare il palo d'acqua. Ci metto 2 metri, facciamo 2 metri e mezzo di palo, tanto non è che ne vaga, insomma, mi viene male che scendere quando voglio scendere, perché una volta che tu stringi i bulloni, già lo sai, si forma la piega ed è un troiaio. Quindi metto due pali uno dentro all'altro e poi stringo, è l'unico modo da fare. Non c'è altro, a meno che non faccio una cosa, no, ma non cambierebbe un cazzo, anche perché il palo c'ha più di 7 anni, quello di 15 anni quel palo d'acqua. Il bello che il palo d'acqua non ci sale nel coso qua, lungo le scale, hai capito? Non gira, quando arrivo al piano mio non ce la faccio a farlo girare, quindi è un casino. Avevo già fatto una volta una prova e ho dovuto legare un cavo e tirarmelo sopra, andare quasi al limite del tetto e tirarlo su, hai capito? Dall'angolo. E che non è che mi piace molto a 60 anni. Allora ne avevo una ventina e lì andava bene. E quanti metri è questo palo che non riesce a far salire sulle scale, più o meno? 3 metri. 3? Eia, tu figurati che se io salgo un frigo, il frigo deve essere minimo alto 1,20 m, non di più, se no nelle scale non ci gira. Minimo, cioè vuol dire massimo alto 1,20 m, ammazza che tromba di scale stretta, ma più stretta delle normali. normali trombe di scale di altri palazzi. Ehi, hai capito? È un piano rialzato quello dove sono io. Se avessero fatto un piano come si deve, se stai in discesa così, e a voglia che c'era salito, mi avrei comprato un frigo da 2 metri, avrei comprato. Non un frigo da 1,20 m. Il frigo lo sai, non ci sta quasi niente. Devi pigliare la cosa proprio contata per starci dentro al freezer. KK, va bene, che ora abbiamo fatto? C'è ancora il sole qua, deve essere presto. Sono le 6 meno, nemmeno meno un quarto. Cavolo, lunga la serata. Oramai fa alle 7, fa buio, io lo sai, che tu. Io già non ci vado a messa. Al limite mi guardo Bonolis alle 7 meno un quarto, quel gioco avanti un altro. Che cazzo ci va a messa quando? Ah boh, io manco gli orari, so. Non mi interessa la religione. L'altro giorno sono passate due signore da giù, due signore boh, 60, 65 anni, no? Bussano. Io mi affaccio perché il citofono è rotto, dobbiamo cambiare anche quello. Ti prego, quelle guardando, ah è lì, stavano guardando dove chi aveva risposto. Dice buongiorno, noi portiamo una visione diversa della Bibbia, con testimone di Geova. Sì, no, grazie. Ho chiuso il mio gioco andato. Sono convinti che quando finisce il mondo loro sono destinati, noi no. Quando muori me. Poi dove vai non si sa, non lo sa nessuno. Le volevo rispondergli qualcosa di strano. Dice no, guardi, io sono un adoratore di Satana. immagina come se ne fuggono. Ecco, è vivo, sì. Di augurio. La gente c'ha altri problemi che sarà pensare alla religione, poi a questi un po' fissati, no? E loro no, anziché ragionare non fanno altro che citare i versi della Bibbia. E questo perché il passo tale tali dice, non fanno altro che citare i cosi della Bibbia, ma mi chiedo se li capiscano, cioè tutto a papardella mia. Quelle schifezze che fanno quando tu esci dalla setta, perché è una setta alla fine, tipo figli, cose, non ti rivolgono più la parola, cioè se un figlio se ne va dalla setta il genitore in teoria non dovrebbe manco rivolgergli la parola, queste schifezze qua a me. Già lo so come funziona, non ti preoccupare, devi fare il battesimo, ti buttano dentro la vasca da bagno, tu immaginati cazzo che uno soffre di coso. Ti buttano dentro, anche se tappano il naso, che bevi l'acqua, che va la vasca, cosa porra, per carità. Non mi ricordo, ma loro erano contrari alle trasfusioni o i mormoni? Non mi ricordo chi era dei due, però credo che siano i testimoni di Geova. No, sono i testimoni di Geova, so. Non puoi fare trasfusioni, non puoi... Non mi ricordo adesso cosa cavolo era l'altro, ma comunque sia, per carità, a me mi hanno assillato per 2 mesi, mi hanno assillato, venivano a casa tutti i giorni, mi suonavano la porta, siamo venuti perché, come sta, fa un culo, detto. Posso immaginarmi, tu molto, come dire, va. Come dire, non mi viene il termine, molto diplomatico mi tu. Io lo grido, non ce la faccio, non sono più venuti, no, per carità. Allora, qua c'era un periodo che in zona, anni fa, pre-Covid, venivano spesso in zona. E poi si facevano i soliti portoni, sempre a caccia di anime. È come se devo suonare, vedevo gente, sai, con le librette in mano, tutti vestiti, diciamo, decentemente, dai. Ho detto, bah, testimoni di Geova. Non si arrendono mai, eh. Non si si arrendono mai. E poi sono comparsi l'altro giorno, non li vedevo da anni, da quando è venuto poco prima del Covid, che erano spariti dalla circolazione. Adesso di nuovo sono all'attacco. Figurati. Certo, c'è una nave cinese che può perforare per 11 km di profondità. Figurati, immagini, cazzo, vai a Pratamola, fai un buco, cazzo, e troviamo il petrolio. Immagini il petrolio a Sassari. Non te lo farebbero fare. La scusa dell'ambiente, il coso paesaggistico. Poi non ho capito, i sardi vogliono energia e sono sempre contro tutto, contro il carbone, contro il gas, contro le paleoliche, contro tutto. Vogliono energia, però non vogliono niente qua. E allora, scobeli bè. Già lo sai che è così. Ce l'abbiamo, ci abbiamo tutto in Sardegna, ci abbiamo il gas, ci abbiamo petrolio, ci abbiamo l'oro, ci abbiamo zinco, rame e anche le terre, quelle che servono a cosa? A Trump. Se scopre poco poco ci abbiamo le terre rare, sai cosa fa? Prende, cazzo, nella base che ci abbiamo qui in Sardegna, cazzo, le toglie tutto e comincia a... hai capito? A farsi dare le terre rare. Dunque, quello è metodo scemo, già lo sai. Ah, Putin gli ha dato picche alla proposta di Trump e Ucraina, cioè si sono fatti la tregua, cioè si sono fatti l'accordo per la pace, no? Il cessate il fuoco e tutto, poi gli hanno proposto a Putin, e ovviamente ha detto no, cioè lui persegue i propri cosi, ha detto io devo perseguire i miei obiettivi, se voi non mi garantite il perseguimento dei miei obiettivi non ci sto, semplice, chiaro, semplice, l'ha detto dal primo giorno, peraltro Putin. Questo è Luca. Minchia, mi hai fatto assustare. Ma questo qua è l'anitto che cambia bip, no? Allora, l'anittone puoi variare il tono e la durata. Però è sempre un tono singolo, cioè non è tipo questo che ho io. Così non lo puoi fare. E come si fa? Allora, dal menu principale, il tasto function che devi imparare a tenere premuto, adesso non ce l'ho sotto mano Luca, devi andare alla voce RBF, quindi Romeo, Bravo Foxtrot, RBF, quella è la frequenza del Roger Beep, e poi devi andare alla successiva voce RBT, Romeo Bravo Tango, che Roger Beep Time, cioè la durata del beep, quindi puoi modificare frequenza e durata. Adesso ce l'hai tipo 48 colt, una cosa del genere, molto acuto e breve. Ah, ecco. No, sembra che poi faccio casino, cazzo, no, ma lo facciamo con calma, dai, quando è il tuo, così facciamo passo per passo. E per vedere un po', per sentire il tono, da cambiarlo. Un poco, mi senti? Sì, che ti serve, a voi ci mancherebbe. Adesso ce lo metto io, BP4 Tony, in questa malattia qua. Ce l'ho le B4. Gli collego quello lì, prima del BP su originale, di questo Lafayette LMS200. E ascolta un attimo, mi devo mettere la crema nei piedi, cazzo, non lo so perché c'ho questo prurito, boh. Non lo so, cazzo, sto tutto martoriando i piedi, non lo so perché, sono il piede destro. Ho fatto qualcosa, cocchiere. Mettiti qualcosa, non lo so. Oh Luca, ma tu usi molto le scarpe da ginnastica? Ma non mi è mai successo, Marco, capito? Ma il prurito dov'è? Tra le dita dei piedi? Potrebbe essere un po' di piede d'atleta. È fatto da un fungo. basta usare il Pevaril o quello che è, passa. Sì, è fastidioso quando viene. Proprio da letto, eh. Sì, vabbè, io uso sempre la scarpa da tennis, Marco, ho capito. Oh, sto pensando che sia bagnoschiuma, ma no, ma no. Cosa devo usare? Il Pevaril, peperone, cos'è? No, il Pevaril era una crema antifungina, però non mi ricordo se era per i piedi o per altro. Ma ci sono anche rimedi normali. Mi pare che forse si usava anche il bicarbonato. Tu metti mezzo secchio d'acqua, ci scioglie il bicarbonato, tieni, fai pediluvio per un quarto d'ora, 20 minuti e se è quello il rimedio, adesso non mi ricordo, potrebbe farlo passare. Se no già ci sono le creme antifungine, ce ne sono tante, non è un problema. Scusate un attimo, sono al telefono, riprendi Antone, arrivo subito, va. Se no fai come si fanno i frigoriferi, acqua c'è tutto tiepido. Sì, c'era il rimedio per quella roba lì, un rimedio naturale. Però vabbè, io non avendolo quel tipo di cosa non mi ricordo com'è. Su internet c'è scritto comunque. Niente che non si possa risolvere. K. Ehi, lascia perdere, su internet c'è un sacco di cazzate, ci sono. La psoriasi c'è scritto addirittura che io mi devo mangiare la cacca cazzo, come si chiama, delle persone sane. Ah, tu cazzo sono di testa, sta meglio, io ho scritto. Tu sei tutto scemo, sei. Perché non te la mangi tu la merda degli altri? No, vabbè, quelle sono sciabiture, Antone. Quelle sono finte notizie, finte cure. Anche mio zio è venuta una cosa del genere al gomito, al braccio. Boh. Quello lo stress dipende da quello che bevi. Il discorso è quello, se ti metti a bere roba forte, ti viene immediatamente, come si chiama, la pelle, capito? Perché il fegato non riesce più a filtrare e quindi scarica lì. Aspetta, stavo guardando una cosa qua, l'ampere. Ok. Domani mi costruisco il microfono amplificato con i pezzi del telefono, quelli che si usano per parlare. Cioè c'è in pratica una cuffia con microfonino e c'è l'amplificatore, c'è l'ingresso e l'uscita. Domani mi faccio una batteria da due batterie da 1,5 e mi faccio il microfono amplificato, ma dovresti vedere come pompa cazzo quello. L'ho già provato una volta, l'avevo fatto, adesso me lo ricostruisco di nuovo e mi faccio il microfono amplificato per baracchino. Altro che Intec, il microfono MB+4. Chiappa, chiappa. A proposito di chiappe, di cose, lo sai che ieri un macco, hanno messo anche il video su YouTube, un macco è andato in via De Carolis, vicino verso i giardini, no, lì, con l'uccello fuori, con l'uccello in mano, e stava seguendo una donna. Sì, lo so, me l'ha fatto vedere Manuela stamattina. Ha detto che quella ragazza c'aveva il cane e il cane l'ha ringhiato e poi gli ha fatto anche il video del telefonino. Eia, però online si vede di spalle lui, si vede solo di spalle, non si vede di faccia, non si vede di uccello. Quello se parte il cane e gli addenta la salsiccia, ce la voglio vedere. Ah beh, sarà soltanto qualche extracomunitario mezzo cotto, capito? E quindi va con l'uccello fuori, eccetera, eccetera, fa quello che secondo te faccio vuole fare. Basta andare col coso, con la forbice o cosa del genere, sta tranquillo che come vi viene, diceva quello. A voi se mi dicono, cazzo, lei l'ho ammazzato, certo, a me mi stava violentando la mia ragazza, cosa mi faccio violentare la mia ragazza e io mi metto a guardare. Ho preso cazzo e gli ho fatto il servizietto, poi gliel'ho tagliata con la forbice. Poi ho chiamato l'ambulanza. Ho preso il pezzo e gliel'ho buttato nel giardino, questo lo faccia ricucire. No, secondo me non è manco un maniaco sessuale, è qualcuno drogato a cui si sarà fumato il cervello o qualche esaurito. Boh, poi tutto è possibile. Tra cinghiali e roba del genere ci possiamo aspettare di questo di tutto di più, lo sai, anche se sai. Non è solo fuori, no? Anche qua sono messi male. Se tu vai al centro storico, no, che non ci puoi riuscire. Tutti armati sono. Armate di pistola, chi di coltello. Se passa al centro storico magari prendo te ne fregano il portafoglio, capito? Con un coltello oppure con una pistola, cioè, oppure ti sparano, ti pugnalano, che cazzo ne so, lo sai che è un periodo strano. Ma c'erano una gang di ragazze e sono sparite dalla circolazione, strano, lì in via La Marmora. Adesso non si sono più sentite, evidentemente si sono cagate sotto. Allegria, Sassari, boh, è andato peggiorando, vabbè. Grazie Boldrini, grazie tante. No, erano tutte ragazze giovani, sassaresi, di 16-17 anni, capito? Per farsi i soldi facili andavano dagli stracomunitari e entravano nel negozio e chiedevano i soldi, capito? Se gli davi i soldi te li rubavano. Era una gang di 6-7 ragazzi, capito? Lì del centro storico. Tanto che cazzo li controlla lì? Pigliavano i soldi, capito? Si divertivano in discoteca. Adesso le discoteche non lo sai che sono quasi tutte chiuse, quindi dove cazzo ti diverti? Più che al bar non ti diverti, ma al circolo. Oh, quasi tutte chiuse. Anche quella di Ossi. Come mai questa storia? C'è solo quella di Seghenzi, quella che c'è in via Milano aperta, quella che c'è qua giù è chiusa la riservata dell'Odotto. Poi quella di Ossi non te lo so dire, la verità. Non penso che Ossi, con i carabinieri che ci sono adesso lì all'ingresso, all'uscita, non penso che fai il togo a bere quando vuoi, quando c'è la discoteca, cazzo te niente a Sassari, no? O ti dormi in strada lì, non so se fu tutto. Quindi ormai sono morte anche le discoteche. Una volta si andava a bere, hai capito? Adesso ti metto la muta sia a piedi che in macchina, già lo sai anche tu. Se ti vedo nel vigile urbano che sei in quelle condizioni, tornando a piedi, cazzo, alla voglia che ti multano. Io mi ricordo anni primi 90, il Rotang, mi piaceva molto il Rotang, scendendo alla discesa di ottava a destra, ci avevo anche lavorato un periodo, poi alla Landriga c'era il cosiddetto Prince, un bel locale su due piani, lavorato anche lì. E poi però questi locali da discoteche, sale da ballo che erano, sono diventati, almeno del Pris l'avevo sentito, un locale tipo l'Egizia, tutto ambiguo, con mignotte, magnaciume, ci hanno degenerato. Prima erano locali per tutti, poi sono diventati locali equivoci, con un certo tipo di clientela, di gente che ci va. E forse anche il Rotang, però non sono sicuro. Vabbè, erano belli però all'epoca, vabbè, era proprio un'epoca diversa, un millennio diverso, un secolo diverso. Le ragazze erano tutte belle, con la pelle perfetta, perfetta, pura, non vedevi tatuaggi, adesso certe sembrano dei galeotti, vabbè. Questi sono i punti di vista, Antonè. Sì, lì ci sono andato anch'io a lavorare, già lo sai. Io ho visto poco di CB, a B dove era? CB, scendevo in moto, scendevo, perché Giovanna lavorava a Pizzicotto, Simona ha lavorato a Pizzicotto lo stesso, io avevo conosciuto a Claudio, si chiamava questo tipo qui, il gambusiere, poi ho conosciuto il proprietario, mi faceva, Antonè, quando vuoi scendere a trovarci, scendi, non c'è problema. Non devi pagare niente, da bene mi faceva, ti offriamo tutto noi. Allora pigliavo, scendevo lì, facevo 5-6 spine prima di salire a Sassari. Ci ho portato Giovanna, ci ho portato anche a Simona addirittura. C'era un divano che c'erano 6 o 7 tutti in fila, poi dall'altra parte c'era un pianoforte, c'era un ragazzo che, uno che suonava, non ti dico chi è, e poi c'erano due o tre ragazze che conosco, capito? Quindi figurati, andavano tutti lì, andavano prima. Adesso ho visto che si sta riempendo qui, non di mignotte, ma dice che c'era la fila l'altro giorno per poter entrare, no? E quindi vuol dire che sta, come locale sta andando bene notturno, evidentemente c'è Pelo che va a cercare di là per fare come si, la voltura la notte. Lega, quanti anni sono passati? Porca miseria. Mi ricordo anche che c'era una birreria, mi pare fosse sempre sulla 131, si chiamava Fitzpatrick, un pub, come lo vuoi chiamare. Sai che non ricordo esattamente la zona. Eravamo andati lì a suo tempo con amici, solo che lì le cameriere erano anche un po'... non scortesi, vabbè, loro prendono ordini, cioè tu stavi lì, bevevi la birra, parlavi, però come finivi la birra già c'era lì, ordinate altro? No, no, a posto, dice, ma se non ordinate altro, dice, dovete liberare il tavolo lì. E io ho detto, cioè, non ho detto io, dice, se questa è l'antifona non ci veniamo più, cioè dovevi bere birra a rotazione, capito? Bere a rotazione. Mentre in altri pub sei vedi più tranquillo, non ti stavano solo col fiato sul collo, capito? Ho capito. Già l'ho conosciuto quel Fitzpatrick. Io una volta sono andato a Austria addirittura, perché mi aveva invitato Giovanna. Allora siamo andati eravamo io, Simona, poi c'era Alessia, Giovanna. Quando sono entrato dentro, cazzo, mi vedo la voglia di vomitare a un certo punto, perché loro hanno bevuto il drink che sembrava cazzo petrolio, io ho bevuto birra. Poi tutto un tratto, cazzo, scendo nel piano di sotto, cazzo, c'era poca gente spacciando coca di tutto, dei bagni, poi c'erano due o tre che avevano messo finocchi. Cazzo, e io mi sto pisciando, perché ho preso, sono uscito fuori, ho pisciato fuori, mi ha sbattuto un cazzo. E detto io, detto non ci rientro, detto non entro in quei bagni, manco morto, gli ho detto. Allora ho detto, io Giovanni, sono le 5 del mattino, torniamo, allora le abitavate al Tiro di Codi a Ripunti, e io ci andiamo a casa, dormiamo e se la piglia in culo, gli ho detto. Non devo stare qui a sventiare, cazzo. Con questi che mi vomitavano davanti vicino al divano, cazzo, ce la fai, facevano schifo, cazzo. Andavano solamente lì a casa, chi se ne andava a corso, ma per carità, un troiaio era. Vabbè. Le discoteche purtroppo sono anche quello, sì, molti vanno a ubriacarsi e basta, anzi fanno a gara chi si ubriaca per primo, soprattutto in questi periodi, una volta ancora, però non ti diverti. Comunque bene o male, quando si è giovani è tutto bello Blue Star, per quanto poco frequentato da me, tutte belle, bello Ruscello, anche lì lavorato, però pochi mesi. Poi a luglio, ho finito luglio, mi sono fuggito perché c'era un caldo terrificante, e anche perché avevano fatto altre proposte di andare sulla barca a lavorare, a fare il mozzo, no, per carità. No. Mi stavo assumendo dallo spino, ho visto, c'erano due ragazze nuove oggi, avevano avuto se no 20 anni, 22 anni, una cosa del genere, tutti nuovi sono, sta assumendo un sacco di persone lo spino, sta assumendo, magari tiene un anno, due anni, quello che è, con tanta formazione del lavoro, e poi magari le mandare da qualche altra parte, questo non te lo so dire, ma comunque visto che c'è stanno assumendo, rimangono solo 3 o 4 di quelli vecchi e basta. Ah, ho capito. Insomma, adesso pensando alle discoteche, vabbè, un bel ricordo. Quando sei giovane è tutto bello, sembra tutto bello che tutto non abbia mai fine. Poi. Poi pazienza, Jerry. Cosa ci vuoi fare? Luca, ci sei ancora, puoi riprendere? Sì, ragazzi, sono rientrato, ho messo la chiamata limitiva, cioè non sta facendo grattare adesso. Guarda, per il prurito, solo per alleviare il prurito, puoi comprare Reactifar Gun. Si chiama Reactifar Gun, è proprio per il prurito, che ti venga al gomito, al piede, basta che sia uso esterno. C'è da applicare solo sulla pelle, non su mucose. E quello ti calma il prurito, però è un effetto momentaneo, capito? Vabbè, no, già sono tranquillo, dai. Però non ho tanto, sono successo il tipo di bagnoschio, ma che stai rompendo le balle, per esempio lo stesso. E adesso vediamo, dai, comunque mi è passato, dai. Forse magari perché la pelle è secca, capito? Ma poi il problema è che sono in un piede. È così. Siccome, cazzo Marco, mi dispiace dirlo, cioè mi dispiace, mi vergogno a dirlo, cazzo ho preso la scabbia, lo sai. La scabbia? Aspetta, cos'era la scabbia? Ma per caso era legata a una carenza di vitamina, di una certa vitamina? Assolutamente no. La scabbia è... ti ce l'ha proprio la contagia e gente che magari sta con gente sporca. Sono, ti spiego, sono dei... come si chiama? Dei tarli che vanno sotto pelle, che fanno uscire delle bolle, capito? Ma credevo che non esistesse nemmeno più la scabbia. Sì, ricordo il nome, ma negli italiani 70-80, poi non ho saputo più niente. E cos'era? Allora, qual era quella malattia legata alla carenza di una vitamina? Forse era lo scorbuto, non mi ricordo, ormai non me lo ricordo più una mazza a memoria. Comunque c'è un altro di balle, perché te prende sotto le parti intime, poi prende sotto le ascelle lì, un po' al petto, sotto, le braccia. No, le braccia vicino alle ascelle lì, quella zona lì, prurito un po' dappertutto, ma sotto cazzo è micidiale. Vabbè, sai, mi sono guarito, ho preso la crema, casino, brutta, ha prurito, guarda, te ne fa uscire gli occhi. Brutto, sta sempre a retto, cazzo, tanto che scappia, quando pigli, come si chiama, la pastiglia, che non c'è. Che stai 3 giorni dritto. Marco. Eia, stavo consultando internet un attimino per ricordare cos'era quell'altra cosa, non la scabbia, quell'altra cosa lì per la carenza vitaminica. Vediamo se era lo scorbuto. Sco. Non ci vado la mazza. Gli occhiali devo prendere. Miglia, ti compro gli occhiali da 1,5 metri, miglia, che ti compro. Almeno ci vedi. Sì, comunque sì, scorbuto e carenza di vitamina C più o meno, là, però quella è un'altra cosa, sì. E vabbè, lì già ci sono i trattamenti, ormai c'è una cura quasi per tutto, quasi. Luca, bevi molta acqua! Sì, già bevo l'acqua. No, allora, praticamente la scabbia è causata da un acaro, capito? L'acaro della scabbia. Sarcoptes. Scabiei hominis, che si trasmette per contatto diretto, soprattutto da occasione di rapporti sessuali, o per via diretta tramite lenzuola, asciugamani o vestiti contaminati. Sì, no vabbè, io sono guarito, non è che... Comunque c'era anche in giornale di La Nuova Sardegna, era uscito che c'era la scabbia, non la scuola, capito? Casino, brutto qua. Vabbè, con l'acqua a voglia, bevo Coca-Cola anche, non molto, insomma, l'acqua la bevo molto di più d'estate, però già la sto bevendo, dai, adesso che me l'ha detto me la bevo un altro po'. Perché si è molto disidratati anche. Ciao Ottore, ben entrato. Sì, buonasera a tutti. È così. Anche quello fa prurito. Ciao Ottore, barrato. E siete a Giappanesi? Ebbene, non sei conveniente. Ma sentita quest'ora, di solito entri più tardi. Sai com'è, mi sono abusato e mi sto rilassando adesso, dopo tanta fatica, mi sto rilassando. Fai bene, fai bene, non c'è problema. Scusate, io volevo fare una considerazione, ma... Dimmi tu.